Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buona giornata e benvenuti. In studio con me oggi è tornato a trovarci il professor Roberto D'Anchise, primario ortopedico all'Istituto Scientifico Galeazzi di Milano. Ma noi non parleremo di ginocchio oggi, bensì di anca. Professore, buongiorno. Buongiorno a tutti. L'anca è un'articolazione che lavora molto ed è sottoposta a pressioni molto elevate durante il suo funzionamento. Per questo, professore, oggi con il suo aiuto e con l'aiuto di tanti esperti cercheremo di imparare quanto, per quanto è possibile prevenire i suoi disturbi e soprattutto riconoscere i segnali di malessere. Gli anni la faticano, la logorano, ma ci sono anche delle patologie specifiche che in qualche modo interferiscono sul suo funzionamento. Allora, oggi parliamo di un'articolazione che è un po' particolare rispetto alle altre articolazioni del corpo, perché è come se fosse una palla che è contenuta in un contenitore assolutamente congruente. Quindi sì, questa palla gira su se stessa e quindi noi abbiamo con la possibilità, come sappiamo, di fare dei movimenti quasi a 360 gradi. È un'articolazione che ci porta a spasso, come ci porta a spasso il ginocchio, come ci porta a spasso la caviglia. Quindi è un'articolazione sottoposta ad enormi sollecitazioni e che tollera molto male anche la minima alterazione, perché c'è un logorio nel tempo. Ci sono delle patologie specifiche, è una articolazione particolare anche perché ha delle patologie che riguardano tutte le età e quindi ogni età, per così dire, può avere il suo problema. Fortunatamente oggi, da diversi anni, ma ancora più oggi, si può dire che esistono delle possibilità terapeutiche che risolvono veramente tanti problemi. Quando lei, professore, mi parla di possibilità terapeutiche, sta pensando alla protesi? Anche non solo. Anche non solo, perché di questo parleremo nel corso della dipende trasmissione. Dipende dal tipo di patologia, dalla possibilità di fare anche della prevenzione nel momento in cui compare una certa sintomatologia. Alle volte si possono fare delle correzioni nella posizione della testa in corso d'opera, che possono rallentare l'evoluzione artrosica o addirittura evitare che questa artrosi si presenti. Mi ero dimenticata di ringraziare e salutare Giorgio Mattei, che è in regia alla parte tecnica, e a Laura Vanossi in redazione, così come di darvi il nostro numero verde, che come sempre è a vostra disposizione, l'800 24 00 24. I messaggi invece al 349 238 6666. Professor D'Anchise, la puntata si prospetta molto ricca, quindi io, se lei è d'accordo, partirei subito individuando i segnali di malessere della nostra anca, che ha una prerogativa nel lamentarsi. Spesso il dolore non è localizzato proprio nella sede dell'anca, ma va un po' a spasso. Sì, e questo qualche volta crea dei problemi, perché per esempio il paziente si può presentare riferendo un dolore al ginocchio, e quindi è importante che il medico, quando visita un paziente che ha male al ginocchio, consideri sempre la possibilità che ci sia una patologia all'anca, perché il dolore dell'anca è un dolore che viene definito cruralgico, cioè che si porta dall'anca davanti sulla coscia verso il ginocchio. Qualche volta il paziente riferisce prevalentemente un dolore al ginocchio con una limitazione di movimento che alle volte è così impercettibile che solo un esame clinico accurato può evidenziare, e di cui il paziente non si rende conto. Un po' infida, è vero, sì. Andiamo a sentire allora i suoi segnali di malessere. Fai fatica ad infilarti le calze, le scarpe oppure ad indossare i pantaloni? Ad accavallare le gambe o ad alzarti dalla sedia senza sentirti indolenzito? Quando cammini, la punta del piede è orientata verso l'interno o tende a girare in fuori? Hai male all'inguine o al gluteo e noti che il dolore corre lungo la coscia fino al ginocchio? Il dolore peggiora quando cammini o ti muovi. Zoppichi? Professor D'Anchise, tra poco analizzeremo le diverse situazioni caso per caso, ma intanto a tutto c'è rimedio, professore? Ragionevolmente sì. 800 24 0024, messaggi al 349 238 6666. Una mela al giorno. I latini la chiamavano acetaria poi perché la condivano con l'aceto. Sto parlando dell'insalata, sicuramente un contorno fresco, sempre pronto, ce n'è in tutte le stagioni, anche nelle varietà invernali, ma i medici raccomandano, attenzione, lavatela con cura, perché tra le foglioline possono nascondersi nemici della nostra salute. In linea con noi abbiamo il professor Fabrizio Pregliasco. Buongiorno professore. Buongiorno, buongiorno a tutti. Vede che non parlo con lei solo di influenza, ma anche di nemici dell'insalata. Dell'insalata, perché comunque sia non ci sono solo le patologie respiratorie a essere particolarmente diffuse, ma a tutte quelle cosiddette a trasmissione fecorale hanno un'ampissima diffusione, e bisogna ricordare principi di buon senso che magari si conoscono ma spesso non si praticano nella realtà. Senta, per che cosa può capitare mangiando dell'insalata non lavata adeguatamente? Un po' di mal di pancia? Una serie di patologie che possono limitarsi a fattori così, a piccole problematiche di dolori addominali, ma si possono avere anche effetti più pesanti a livello anche proprio di salute, di rischio per la salute nei soggetti più fragili, perché nell'insalata tipicamente salmonelle, escherichia coli, campylobacter, in questo caso sono una serie di batteri che vengono... Questi nomi le piacciono in modo particolare perché a lei sono familiari. Sono tutti batteri che vivono nell'intestino di uomini barra animali, alcuni anche nell'ambiente, e purtroppo possono causare queste enteriti di dimensione e effetto diverso, e nell'insalata, che tipicamente può essere contaminata in modo indiretto e inconsapevole, ma comunque molto frequentemente da questi, diciamo, deiezioni di uomini e animali, noi possiamo poi utilizzandola, cibandocene. Senta professore, in commercio ci sono quelle buste comodissime di insalata già lavata, lei se l'avrà consumata anche lei, immagino. Sì, infatti, perché sono rapidissime, ecco, ma lei la lava anche quella? Consiglia di lavarla? Ma è pronta, è lavata, tecnicamente dovrebbe aver subito un trattamento tecnologico, però alcuni rilievi fatti a campione evidenziano in alcune situazioni la presenza comunque di questa contaminazione batterica, quindi il lavaggio, eventualmente integrando con del bicarbonato di sodio, utile per una maggior dilavatura, per una eliminazione della parte organica che è alla superficie, senza essere troppo aggressivo, io credo che dovrebbe essere buona norma sistematica. Senta, c'è un ultimo dettaglio, spesso per lavare l'insalata la si lava, la si sciacqua bene sotto l'acqua e poi la si lascia a bagno. È un guaio. È un guaio? Questo perché ovviamente il macerarsi delle foglie riduce quelli che sono poi gli apporti positivi di questi alimenti, perché le vitamine se ne vanno e in qualche modo si rovina anche l'aspetto organolettico, quindi un'attenzione all'ultimo momento e via rapidamente un lavaggio bicarbonato per migliorare l'efficacia. Professor Pregliasco, grazie per essere con noi, buona insalata allora, la lavi, grazie professore. Arrivederci a tutti. E io approfitto per ricordarvi, anzi lanciare in questo momento, il nostro consiglio di lettura. Grazie all'iniziativa di Internet Bookshop potete ricevere a casa il libro dal titolo Cucinoterapia, curare, accudire, amare se stessi e gli altri con il cibo. Basta che voi mi scriviate Cucinoterapia, che mandiate un'email molto velocemente a essere benessere@radio24.it, titolo, numero di telefono, recapiti. Naturalmente il libro arriverà a casa del primo ascoltatore che raggiungerà il nostro indirizzo di posta elettronica. In collaborazione con IBS.it. E dall'insalata torniamo all'anca. Lei la lava l'insalata? Se la trova già pronta. Ebbene sì. Dopo ore e ore di camera operatoria, ci manca, professore, difficoltà nel movimento, dolore e una leggera zoppia. Queste potrebbero essere in sintesi i segnali di malessere della nostra anca. Direi di sì. Quindi se vi ritrovate descritte in queste situazioni, chiamate il nostro numero verde 800 24 0024 o scriveteci al 349 238 6666. Professore, lei diceva spesso si va dal medico per un dolore al ginocchio e poi si scopre che invece il problema, la causa è l'anca. Esatto, per questo quindi ripeto quello che dicevo prima, la valutazione deve essere estremamente accurata. Diciamo che non è così frequente perché il dolore all'anca comporta poi progressivamente, come dicevo, una infiammazione dell'articolazione e quindi una limitazione del movimento, quindi il paziente si rende conto che il problema è all'anca. Però, ripeto, non è infrequente che ci si trovi di fronte a un dolore cruralgico, come dicevo prima, quindi lungo la coscia, che può confondere con un dolore al ginocchio. Professore, conta la familiarità nel problema moltissimo, all'anca, moltissimo, vero? Questo è un elemento importantissimo e questo comporta quindi la necessità di capire bene che il problema neonatale, cioè la necessità di controlli neonatali, sono fondamentali. E lei accenna alla displasia dell'anca. Esatto. Un tempo i medici la chiamavano displasia congenita dell'anca, adesso si trova displasia evolutiva dell'anca. Sì, l'importante è sempre su base congenita. Certo. L'importante è individuarla precocemente. Esatto. Molto precocemente, praticamente in culla. Ci spiega perché il dottor Roberto Giacometti. Buongiorno. Buongiorno. Primario della prima divisione di ortopedia del Galeazzi. Dottore, intervenire, diagnosticare rapidamente. Quanto rapidamente e con che vantaggi? Il più presto, alla nascita. Infatti le migliori diagnosi si fanno nei reparti di neonatologia, le fanno i neonatologi, le fanno i pediatri neonatologi e proprio nel neonato. In genere l'ecografia è fatta nel neonato e l'ecografia è fatta prima che il bambino ritorni a casa. E questo è questo in tutti i reparti? No, magari fosse magari, vero, sicuramente. Però da quando si fa questa ecografia la situazione è cambiata in modo evidente, si è rivoluzionata, è cambiato addirittura anche il nostro mestiere. La chirurgia del bambino displasico è quasi scomparsa, fortunatamente, perché era una chirurgia grave, una chirurgia pesante, ed è quasi completamente scomparsa grazie agli ultrasuoni che hanno permesso di fare una diagnosi precoce. La diagnosi precoce consente una terapia che spesso è banale, dei pannolini più grossi, un piccolo divaricatore, delle procedure terapeutiche che sembrano banali, ma fatte in età precoce consentono di evitare procedimenti più importanti e meno efficaci, tardivi. Dottor Giacometti, io la ringrazio per essere stato con noi, le auguro una buona giornata. Mio, grazie. Grazie. Voglio leggere un messaggio di un'ascoltatrice che ci scrive: sì, sono disperato, ho tutti i sintomi descritti pochi minuti fa, inguine comprese, eccetera, eccetera. Cosa fare? Subito una protesi, evidentemente. No, no, scherzo. Evidentemente deve essere fatto uno screening. Questo ci consente di dire, magari anticipare quello che forse avremo detto dopo, che cosa fare quando ci si trova di fronte una situazione di questo genere. A differenza, per esempio, del ginocchio o di altre articolazioni, la radiografia è l'esame che ci consente, nella stragrande maggioranza dei casi, di inquadrare il problema. Quindi un esame radiografico è importante. Poi, se l'ortopedico ritiene che la sintomatologia sia specifica dell'anca e la radiografia non evidenzia nulla, si può passare a fare una risonanza magnetica nucleare, perché oltre a patologie displasiche, come abbiamo detto prima, quindi congenite, esistono tante altre patologie che sono, per esempio, la necrosi cefalica. Qualche volta c'è come se ci fosse un piccolo infarto nella testa del femore, un apporto vascolare, solito dolore inguinale, limitazione di movimento. A questo punto la radiografia ci spaventa, sì. Però come l'infarto si può evolvere anche positivamente, quindi è importante recuperarlo in tempi molto rapidi e qualche volta con uno scarico, quindi riducendo la fatica, si può anche ottenere un buon risultato. È importante sapere in questo caso che a volte anche la risonanza non ci dà l'informazione, perché la risonanza ci dà un'informazione in un secondo tempo. In un primo tempo la scintigrafia fotografia è l'elemento che ci può dare un'informazione principe. A parte la nostra amica che sentiva tutti i sintomi, noi non vogliamo fare delle diagnosi telefoniche, lei poi certo. Non potrebbe ma vorremmo partire proprio dai sintomi per inquadrare un po' il problema, perché quando il messaggio che ci manda la nostra anca qualche cosa fa riferimento. Chi ha difficoltà, ad esempio, la prima situazione, a infilarsi calze, scarpe, a flettersi, quindi. Ecco, però questo, devo dire la verità, i sintomi che sono stati descritti sono dei sintomi un po' avanzati, cioè che dimostrano già un'anca notevolmente impegnata. Questo può avvenire se c'è improvvisamente, se c'è una sinovite, cioè un'infiammazione, magari anche per altri motivi dell'articolazione, quindi si ha improvvisamente un dolore e limitazione. Però la limitazione nel mettere le calze, nella zoppia, di solito è un sintomo. Abbiamo lasciato passare un po' di tempo prima di fare la diagnosi. Ad esempio, arrivano diversi messaggi. Provo un dolore interno ed esterno ad entrambe le anche, solo quando sono sdraiato sul fianco. Ho 45 anni e non faccio sport. Potrebbe essere artrosi? Moreno di Vicenza. Allora, ci lanciamo nella diagnosi? Professore. Nel senso che l'anca è l'articolazione, però come tutte le articolazioni intorno ha tendini, muscoli e altre formazioni. Qualche volta si può avere nella sporgenza dell'anca, che noi possiamo sentire se tocchiamo, si chiama trocantere. Siccome questo trocantere è un osso che sporge un po' ed è quasi a diretto contatto con la pelle, ci può essere una borsite. La borsite, ne abbiamo parlato qualche volta, è una infiammazione di un cuscinetto che madre natura ha messo tra pelle e osso che sporge. Qualche volta si infiamma, si riempie un pochino di liquido e fa male, quindi ci sta abbastanza con i sintomi riferiti dalla paziente, poggiandosi su un fianco o sull'altro quando è sdraiata, lei preme su questa zona di osso sporgente, per così dire, e quindi può far male. Elisabetta, 50 anni ci scrive, perché lei spesso chiede l'età anche alle nostre ascoltatrici. Non è corretto, ma bisogna anche farlo. Va bene. Il mio dolore è dietro all'interno della natica e peggiora col movimento. È grave, cosa devo fare? Allora, certamente non è grave, ma come sempre bisogna fare degli accertamenti. Altro elemento importante, affrontando sempre il discorso della diagnosi differenziale, cioè non solo problema dell'anca, qualche volta questo dolore cruralgico di cui noi abbiamo parlato, quindi, può derivare da un problema della colonna, quindi di un'infiammazione di un nervo, sempre il nervo crurale, che è l'inverso dello sciatico. Lo sciatico fa male dietro e il crurale fa male davanti. Andiamo, quindi potrebbe essere questo. Andiamo a Roma, no, nella provincia di Roma ci aspetta Sergio, 800 24 00 24. Sergio. Sì, buongiorno. Buongiorno a lei. Posso parlare? Certo. Sono un po' emozionato, è la prima. Allora parli di un soffio che le passa. Anche noi siamo emozionati. Senta, allora, guardi, io ho un problema, ho un'artrosi all'anca destra da diversi anni. Praticamente ho una leggera assopia, il dolore ci ho convissuto per tanti anni, però adesso sembra che debba subire un intervento. Ho fatto una radiografia e diciamo, l'ortopedico che mi sta seguendo mi ha detto che è ineluttabile questo. Però io volevo dire che siccome ho sempre fatto sport e adesso vado in bicicletta non mi dà dolori. Ecco, io volevo sapere se una volta fatto l'intervento, insomma, se potevo continuare a fare sport, insomma. E poi ecco, essere un po' tranquillo, perché tra l'altro ho anche una spondilolistesi e mi hanno detto che se io ritardo l'intervento potrei avere peggiorare tutto il quadro generale. Sergio, insomma, la prossima volta la invitiamo qua, così il professor D'Anchise le tiene sul morale, perché mi sembra che Sergio sia molto preoccupato. Ci viene mal di testa a seguire tutti i problemi che ha, poverino. Allora, per quanto riguarda la sua situazione, io credo che, questa è la mia filosofia personale, un intervento di protesi va fatto quando il paziente ne ha bisogno, quindi quando la qualità della vita viene ad essere alterata. Non è un intervento di prevenzione, che quindi dobbiamo fare in fretta perché altrimenti peggiora. Siccome si tratta di sostituire l'articolazione, è un intervento che può essere fatto anche se l'artrosi è peggiore, può diventare solo un problema tecnico-chirurgico, ma è un problema assolutamente risolvibile. Quindi se lei ha dei disturbi significativi, faccia l'intervento di protesi. L'intervento di protesi d'anca, a differenza del ginocchio, consente un recupero molto, molto più rapido e dà dei risultati veramente molto molto brillanti. Io personalmente ritengo che non sia corretto fare un intervento chirurgico di protesi per fare attività sportive. Un certo tipo di attività sportiva si riuscirà certamente a fare se tutto va bene, però non deve essere questo lo scopo. Sì, se viene uno da me e mi dice mi faccia la io non scio più, vorrei sciare, mi faccia la protesi, io dico non sci e non si faccia fare la protesi. Quindi deve essere io dico sempre che bisogna rispettare la chirurgia, nel senso che è giusto farla quando si deve fare. Al momento giusto. Noi parleremo di protesi, parleremo anche di come poter mantenere magari in buona salute un'anca che inizia un po' a diventare sofferente, perché c'è una sorta di temporeggiamento salutare. Certo, professore. Quando si inizia a capire che c'è un'artrosi, alcuni consigli di vita possono certamente essere utili. E noi ve li daremo, anzi il professor D'Anchise è qui per questo. Ed eccoci di nuovo insieme, oggi parliamo di anca, in studio con me il professor D'Anchise, ma ci fermiamo per parlare di amore, no, di odio, no, parliamo di amore e di odio, due sentimenti opposti che nascono però da percorsi mentali identici, un po' come se fossero due facce della stessa medaglia. Catullo, ve lo ricordate, lo aveva in parte intuito, ma i ricercatori britannici confermano, aggiungendo, credo, qualcosa in più, ma lo chiediamo al professor Remuzzi, coordinatore delle ricerche del Mario Negri di Bergamo, che da sempre ci aiuta a leggere e commentare le ricerche. Professore, buongiorno. Buongiorno. Allora, che cosa hanno scoperto? I ricercatori di Londra hanno studiato l'attività di alcune aree particolari del cervello e le hanno chiamate aree dell'odio. Sono aree distinte da quelle che si attivano in seguito ad altri tipi di emozioni, per esempio la paura, oppure la sensazione di pericolo o di minaccia. Sono aree molto specifiche. I ricercatori hanno sottoposto quasi 20 persone allo studio di queste aree del cervello, mentre mostravano loro delle immagini di persone che loro odiavano apertamente. Ex innamorati sono le persone che si odiano più facilmente, delle volte colleghi di lavoro, oppure personaggi politici. Di questi tempi è molto attuale. Alla vista di queste immagini le aree di cervello dell'odio diventavano più attive. Senta, professor Remuzzi, ma invece se si facessero vedere, o magari l'hanno fatto, delle immagini di persone amate? Si attivano le stesse aree del cervello, però la differenza sta nel fatto che quando uno vede una persona cara, la parte del cervello che governa il ragionamento e il giudizio si disattiva, come se per odiare fosse necessario tenere allerta tutte le facoltà mentali, mentre quando si ama si perde la capacità di giudizio. E questo è anche piacevole, no, professore? Allora, il confine tra odio e amore, si diceva, è labile, sembra una frase, un luogo comune. In realtà questa affermazione pare proprio avere un fondamento scientifico. Professor Remuzzi, grazie per essere stato con noi. Buona giornata, ci sentiamo presto. Buongiorno, buona giornata. E allora lasciamo da parte l'amore e l'odio e torniamo ad occuparci della nostra anca. Quando inizia a darci dei problemi è giusto dedicarle delle attenzioni un po' particolari. Abbiamo in linea con noi il dottor Stefano Respizzi, che è tornato a trovarci, responsabile del Dipartimento di Riabilitazione e Recupero Funzionale di Humanitas. Dottor Respizzi. Buongiorno Nicoletta. Buongiorno, buongiorno a lei. Senta dottore, là abbiamo visto che insomma gli anni pesano sulle nostre inesorabilmente, non solo sull'anca ma un po' ovunque, ma comunque oggi parliamo di lei. Iniziano i primi leggeri dolorini, allora si cerca in qualche modo di correre al riparo, come sempre capita quando qualcuno si lamenta, gli si dedica maggiore attenzione. Certo. Ci aiuti lei a scegliere le attenzioni giuste? Dunque, le articolazioni sono degli strumenti eccellenti dal punto di vista meccanico, che necessitano di movimento, cioè devono essere sempre mobilizzate. Sì. Quando c'è però un iniziale processo artrosico, comincia a dar fastidio quest'anca, si comincia a sentire qualcosa che non va, bisogna inventarsi dei metodi che consentano il movimento ma non il sovraccarico dell'anca. Ad esempio, se una persona ha la buona abitudine di fare del trekking in montagna, bisognerà sconsigliarlo, purtroppo. Sì. Mentre invece può essere consigliabile utilizzare una bicicletta e quindi fare delle gite in bici, perché il peso del corpo è sul sellino e non grava sull'anca. Infatti nei paesi, dottor Respizzi, si vedono persone molto anziane che magari camminano col bastone e poi vanno in bicicletta, evidentemente, vero? Vero. È vero. Assolutamente. Io so già che cosa, allora quale sarà il mio mezzo. La bicicletta aiuta molto anche lo sviluppo delle capacità di equilibrio, perché naturalmente se una persona continua a utilizzare utilizzarla, può arrivare in età molto avanzata senza avere problemi. E quando si interrompe, che il nostro cervello poi dimentica alcune abitudini motorie. Quindi muovere l'articolazione senza sovraccaricarla. Esatto. Soprattutto poi se il paziente è un po' sovrappeso, e questo è naturalmente un aggravante, se decide di fare 5 km in montagna, non è la cosa ideale, diciamo, camminando. Mentre invece se vuol fare 10 km in bici, direi che non succede niente di che, anzi è favorevole per l'articolazione. Bastano queste indicazioni, dottor Respizio, o qualche altro suggerimento per dunque, noi? Dunque, un'altra cosa che dà molto carico all'articolazione è il fare le scale. Quindi anche le scale possono diventare un fattore molto da limitare in maniera attenta, ad esempio, soprattutto in discesa, perché ogni volta che si scende naturalmente il sovraccarico viene aggravato dalla forza di gravità che cerca di tirare il corpo verso il basso, naturalmente. E quindi anche questa è una cosa che bisogna cercare di sconsigliare o perlomeno limitare il più possibile. Sì. Per quanto riguarda le abitudini quotidiane, cioè il vestirsi, lavarsi, eccetera, ci possono essere dei fastidi perché magari non si riesce più a mettere la calza nella maniera corretta. Sì, come abbiamo appunto messo nella nostra scheda. In quel caso ci si fa aiutare? Ci sono degli strumenti che vengono venduti nei negozi di ortopedia, degli ausili, che sono delle sorte di molle che ci consentono di allungare il braccio e di infilarci la calza anche senza flettere l'anca tantissimo verso il tronco. Sono tutti trucchi che però... Insomma, bisogna fare di necessità virtù. Sì, però sono trucchi che vengono presi in considerazione quando il mio amico Roberto D'Anchise, che approfitto per salutare, è già vicino all'intervento o è già programmato. Però, ad esempio, il professor D'Anchise ha detto, lei non era forse collegato con noi, ha detto, se una persona viene da me e mi vuole mettersi la protesi perché vuole andare, che so, a sciare, la protesi non la metto perché bisogna avere il rispetto della chirurgia. Assolutamente d'accordo. Dottor Respizi, allora, proveremo con i suoi consigli a prenderci cura della nostra anca e noi ci avviciniamo infatti alla protesi per capire un attimo, parli per lei Nicoletta. No, noi come tempo, non come trasmissione, guarda che io sono più giovane di lei, dottor Respizi, quindi lei mi precederà sicuramente. Assolutamente. Per il momento la saluto, la ringrazio, va bene, buona giornata. Ciao Roberto. Arrivederci. Io non ho per nessuno di voi due, vi avverto. No, io sono né l'uno né l'altro. Secondo lei la mia anca potrebbe avere problemi? Perfetta, ma certo. Andiamo a Stefano da Verona. Stefano, buongiorno. Buongiorno. Sto scampando perché... dica lei. Volevo fare una domanda al professore. Siccome ho sentito prima dei sintomi, mi sembra di ritrovarmi in questi sintomi, mi sono subito preoccupato. Allora, 52 anni, sovrappeso di 7-8 kg. Al mattino quando mi alzo ho un dolore all'altezza dell'anca e ho un dolore alla pianta del piede. Dico anche che faccio parecchia palestra e a volte mi passa questo dolore, a volte no. È strano, si fa vivo qualche volta durante la giornata. È un dolore, è una cosa che si riferisce all'anca oppure è qualcosa d'altro? Magari il nervo sciatico. Allora, innanzitutto, Stefano, come sempre dobbiamo fare molta attenzione perché quello che noi diciamo è qualcosa di assolutamente generico e non ci si deve preoccupare se abbiamo uno o più sintomi, molto spesso non hanno nessun significato. Il fatto che lei abbia un dolore contemporaneamente all'anca, cioè la parte alta, e al piede fa più pensare ad un problema di sciatica, ovviamente è un'affermazione molto molto generica, certo, perché... che ha un problema di anca, quindi ma stia tranquillo, faccia il suo sport e non ci pensi. Antonio dalla Spezia, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Volevo chiedere al professore se i sintomi descritti nella scheda devono essere progressivi o se possono essere anche saltuari. Perché io lei come ce li ha, Antonio? Io ce l'ho dunque lungo la coscia fino al ginocchio in alcuni periodi dell'anno. Sì, un po' vanno e un po' vengono. Vanno e vengono. Vabbè, se sono... Nei periodi più freddi dell'anno, però non sono costanti. Ah, Antonio, se vanno e vengono... Cambi città e vada in un posto dove fa caldo, prima di tutto. Secondo, se vanno e vengono non sono un grosso problema. Da quello che racconta lei, anche qui credo che sia più un problema di schiena, cioè di radici nervose un po' infiammate, che un problema di anca. Andiamo a Ada, ci chiama da Pordenone e poi parliamo di protesi. Ada, buongiorno. Buongiorno. Che succede? Vi ringrazio per avermi chiamato, bella trasmissione. Niente, succede che da parecchi anni, diciamo, io ho un croc all'anca destra, ma proprio la sento camminando tranquillamente, se è tutto silenzio si sente proprio questo croc, non fa male, premetto, però in compenso alla mattina quando mi alzo alla schiena o quando mi giro anche nel letto di notte le fa male. E fa veramente. Quindi un'anca, Ada, abbiamo sentito la sua voce che si stava sfumando, ma abbiamo capito. Allora, un'anca che fa croc e un'anca che al mattino dà disturbo. Eccoci, siamo tornati insieme. Professor D'Anchise, un'anca che fa croc e la nostra amica fa fatica a girarsi nel letto, un po' di dolore al mattino, mal di schiena. Vive a Pordenone. Come si fa? Pordenone non è un sintomo, no, però no. Però magari non so, facciamo un po' freddo. Allora, rapidamente, come ho detto prima, l'anca non è solo l'articolazione, ma è fatta anche da formazioni esterne. Questa probabilmente la signora parla di un'anca a scatto, che in sintesi è lo scatto di un tendine o di una fascia nelle sporgenze ossee. Come il dito a scatto? Un po' come il dito a scatto, se vogliamo. Quindi l'elemento fondamentale è che tutti gli scatti articolari, che sia il ginocchio, che sia l'anca, che sia la caviglia, che non fanno male, sono solo un disturbo acustico. Sì. Quindi non c'è niente da fare se lo tenga e non ci pensi. Se dovesse far male, si può pensare a qualche altra cosa, ma per il resto io sarei tranquillo. Per quanto riguarda il mal di schiena, probabilmente è un sintomo, è una sintomatologia diversa, legata magari a un problema muscolare. Andiamo a Laura che ci chiama da Vercelli. Laura, buongiorno, benvenuta. Buongiorno, mi scusi, sono emozionatissima. Ma no, Laura. E noi abbiamo questo problema, cioè io ho mio nipote. Sì, quanti anni ha? 38 anni. 38. Ha sempre fatto molto sport violento, direi, ha sempre fatto molto calcio. Da 2-3 anni male all'anca, hanno fatto già delle radiografie due anni fa, ora le ha ripetute. Ha l'artrosi all'anca bilaterale più accentuata sulla destra. E siamo andati da un ortopedico, da prima dalla reumatologa, le ha consigliato di fare delle infiltrazioni di acido ialuronico. Esatto, e poi? E di fare della fisioterapia. Poi siamo andati da un altro ortopedico, il quale ha subito parlato di protesi, non solo di protesi, ha accennato anche ad un preintervento, da quello che ho capito un incapsulamento per ritardare di 5 anni la protesi. Allora Laura, grazie per averci chiamato, è andata benissimo, non si sentiva neanche un briciolo di emozione nella voce, ma professor D'Anchise, un intervento pre-protesi? Allora, visto che ci siamo, parliamo anche un attimo di questo discorso delle infiltrazioni, nel senso che io personalmente non sono favorevole, specialmente all'anca, perché non è una terapia risolutiva, è come mettere un lubrificante in un articolo, in un meccanismo che è un po' arrugginito. Il meccanismo riparte, ma quando poi il liquido viene riassorbito siamo appunto da capo. E a differenza del ginocchio, a differenza di altre articolazioni, è molto più difficile raggiungere l'anca, perché è più profonda rispetto ad altre articolazioni. Quindi io personalmente non sono così favorevole alle infiltrazioni. Per quanto riguarda il discorso delle protesi e il discorso che facevo prima, l'intervento chirurgico va fatto se vi è la necessità, non per fare attività sportive. Si parla oggi di queste preprotesi, che è comunque una protesi, nel senso che noi non andiamo a eliminare completamente la testa del femore, ma andiamo a rivestirla con un materiale artificiale. Comunque è un intervento chirurgico e comunque va fatto se esiste la necessità. E devo dire, devo aggiungere che in passato queste preprotesi ci hanno dato qualche problema. Oggi sembra che i materiali siano decisamente migliori, però è sempre un intervento chirurgico di tipo protesico, quindi va fatto esiste la necessità. Può essere considerato come una protesi parziale? Sì, può essere considerato come una protesi parziale. In sostanza noi andiamo a mettere un cappuccio a quella palla di cui parlavamo prima, che è diventata ruvida, e la rendiamo di nuovo liscia. Però, ripeto, la previsione futura è sempre quella di una protesi totale, e ricordiamoci che tutte le volte che si fanno i secondi interventi comunque è un problemino. Quindi vuol dire, tra le righe, che è meglio aspettare 3 o 4 anni e farsi la protesi totale? No, io voglio voglio dire che è necessario, se è necessario, dipende poi dall'esperienza del chirurgo, che può decidere per una protesi totale o per questa protesi, definiamola parziale, come diceva lei. Però, deve esserci la necessità, questo è l'elemento fondamentale. Anche perché meno volte si finisce sotto i ferri, meglio è. Esatto. No, perché ogni intervento è un rischio. Certo. Però volevo aggiungere, non dobbiamo illuderci che la preprotesi ci consenta di fare una vita diversa, definiamola preprotesi, sì, da quella che facciamo in questo momento, nel senso che comunque è un'anca che deve essere riguardata, non può andare a giocare a pallone, cioè non può fare una vita ad esempio normale. Lorenzo da Milano, perché gli sportivi vogliono o non vogliono che l'anca li blocchi e li tenga in panchina, se la pratica sportiva è componente importante della propria vita, esistono protesi di anca più adatte alla pratica sportiva? No. Sono stato sintetico. Sì, molto sintetico. E ripeto, il discorso di prima, non è ragionevole fare un intervento chirurgico per fare attività sportiva di questo genere, insomma. Andiamo a Renato, ci chiama da Torino. Renato, buongiorno. Buongiorno. Renato. Buongiorno. Le chiederei di essere molto sintetico, perché noi abbiamo l'appuntamento come ogni giovedì con le storie che ci insegnano a vedere. Esatto. Grazie Renato. Allora Renato, complimenti per la trasmissione. Chiamo da Torino, ho 46 anni, 1,74 per 70 kg, mamma con grave gonartrosi e artrite deformante. Sì. Una decina di anni fa, in seguito a un evento acuto, dolori forti alla schiena, zona lombare, esami e quant'altro, diagnosticata coxartrosi bilaterale. Sì, Renato, venga la domanda. Da allora faccio solo un po' di camminate e un po' di scalette. Adesso 2 anni a questa parte sento dei formicolini, non riesco più a camminare più di 10 minuti perché mi si indolenziscono le gambe. E quindi ha questo fastidio di indolenzimento e formicolio. E anche dolori alla colonna vertebrale. Che si irradiano. Grazie Renato. Professor D'Anchisi. Probabilmente una parte dei suoi disturbi sono legati al fatto che lei non cammina perfettamente. Ripeto quello che ci siamo detti fino adesso. Se lei vive una vita normale con qualche dolorino, aspetti certamente prima di fare l'intervento di protesi. Vuole aggiungere qualcosa? Sì, voglio aggiungere due parole sul discorso protesico. La protesi va fatta, per così dire, a tutte le età, anche se vi è la necessità. Quindi anche un ventenne che non riesce a vivere una vita normale è ragionevole operare. Ma anche un ottantenne? Anche un novantenne, anche un centenne. Io una volta ho operato una di più di 90 anni che mi ha detto: ma se devo vivere un anno ancora, perché devo vivere male? Mi sembra un discorso quanto mai logico. Volevo aggiungere ancora che, fatta la protesi dell'anca, bisognerebbe controllarla periodicamente, un po' come un'automobile. Sì. Senso che se c'è qualche piccolo problema e lo si prende in tempo, rifare un intervento è banale. Se invece non lo si prende in tempo, l'anca può andare incontro ad una notevole distruzione e diventa tutto più complesso. Quindi al momento giusto e controlli. E come ogni giovedì, prima di salutarci, ascoltiamo una storia, conosciamo una persona che ci aiuta a vedere. In linea con noi abbiamo Francesco Ipovedente, assessore allo sport, e con una passione particolare, il rally. Ma ce lo facciamo raccontare da lui in un minuto. Francesco. Ciao Nicoletta. Ciao Francesco. Allora, sono parte di un progetto nato a Brescia dedicato ai ragazzi ipovedenti e non vedenti, che ci permette di fare il navigatore, cioè colui che dirige lungo la strada il pilota nel mondo dell'automobilismo, sia nei rally che nelle autostoriche. Nei rally solo noi ipovedenti per questioni di sicurezza, nelle autostoriche anche i ragazzi non vedenti. Questo grazie all'ausilio di particolari dispositivi che ci siamo inventati noi stessi pur di affrontare questo tipo di sport. Per poter seguire la vostra passione. Sì, esatto. Avete l'ingegno che vi è riuscito in qualche modo a farvi seguire il cuore, quello che volevate fare. Senti, sì, esatto. Senti Francesco, quindi noi dobbiamo salutare, Giorgio Mattei mi sta già facendo segno, ma io chiedo sempre ai nostri amici del giovedì di darci una frase, uno slogan, un messaggio con cui riflettere. Voi che in qualche modo ce l'avete fatta metabolizzare un handicap e ad affrontare una vita, devo dire, tu hai potuto coltivare addirittura la tua passione. Sì, Francesco. Esatto. Il messaggio è volere potere, infatti anche il raggiungimento di questo messaggio è il fatto che al prossimo anno forse prenderemo parte al campionato del mondo rally, quindi nella massima specialità dell'automobilismo. Per cui ecco, è lì solo da commentare. Un abbraccio a Francesco. Saluti a voi. Grazie Francesco, professore D'Anchise, grazie a lei per essere stato grazie con noi. E noi ci sentiremo presto. Noi invece domani dopo il GR delle 11. Buona giornata da Nicoletta Carbone.